destinatario sconosciuto e lo straordinario racconto di Chrisman Taylor, una scrittrice di cui non conosco altro, che deve essere morta pochi anni fa, nel 97. In forma epistolare racconta la tragica e sorprendente vicenda di due famiglie amiche nella superficialità dei giorni comodi di una pace ideologicamente artificiosa e improvvisamente ostili nel momento in cui l'avvento del nazismo impone scelte morali decisive. Da una parte all'altra dell'oceano, dall'America alla Germania, uno crede di poter chiedere il favore di salvare una vita cara a quello che da amico affettuoso si trasforma rapidamente in carnefice, nella consapevolezza che un regime dispotico controlla ogni comunicazione diretta ai propri sudditi. Quelle stesse lettere che in un primo momento erano portatrici di speranza si trasformano dopo la tragedia in un raffinato strumento di vendetta, fino alla catarsi finale, ovvero al momento in cui l'ultima lettera diretta al carnefice torna al mittente con la scritta destinatario sconosciuto, a testimonianza di come i mostri siano pronti a divorarsi fra loro. La straordinarietà del racconto sta tutta nel fatto che è stato scritto e pubblicato nel 1938, ben lontano. È stato scritto e pubblicato nel 1938 in America, ben lontano da quella stessa Germania in cui parecchi che c'erano stentavano ancora a capire, ecco, diciamo così, cosa stesse accadendo. Nel 1962 lo scrittore svizzero Friedrich Dürrenmatt mise in scena I fisici. Erano trascorsi 17 anni dall'esplosione delle due bombe atomiche, una all'uranio e una al plutonio, a Hiroshima e a Nagasaki. C'era stato tutto il tempo, dunque, per immaginare una storia alla rovescia, quella di fisici che, pur di non tradurre il loro micidiale sapere in armi che avrebbero messo a rischio la stessa vita sul pianeta, decidono di fingersi pazzi da legare, preferendo il manicomio e sfuggendo al loro serviziato presso quei potenti che più potenti sono e più criminali possono diventare, che poi si scopra nel corso della vicenda raccontata da Dürrenmatt che in tutto il manicomio l'unica veramente pazza da legare è la direttrice del manicomio stesso, fatto che l'altro ieri magari era scandaloso, ieri quasi ovvio e oggi ai noi quasi scandaloso quanto l'altro ieri. Beh, tutto ciò sfiora appena l'argomentazione che segue. Appena sconfitta la Germania, gli alleati angloamericani impacchettarono un po' di fisici tedeschi e li rinchiusero a Farm Hall, una villa inglese che, se non sarà stata provvista di doppia stanza da bagno per tutti, in compenso era provvistissima di microfoni, più o meno in ragione di due almeno per ogni tazza di ogni stanza da bagno. È ciò che passa alla storia come l'operazione Epsilon. Urgeva sottrarre ai russi e magari anche ai francesi la fonte più diretta da cui poter apprendere quanto la scienza tedesca avesse ottenuto in materia nucleare. Soprattutto occorreva scoprire se qualcuno di loro era in grado o no di costruire la bomba atomica. Fra questi scienziati c'era Otto Hahn, che nel 1938 aveva scoperto la fissione nucleare, e c'era Werner Heisenberg. Heisenberg aveva formulato il principio di indeterminazione nel 1927, aveva preso il Nobel nel 1932 e più tardi, quando era diventato direttore del Kaiser Wilhelm Institute, ricevette dal ministro per l'armamento Albert Speer, l'architetto amico di Hitler, ricevette l'incarico di costruire la bomba atomica per invertire le sorti della guerra. Incarico che, come sappiamo, non fu mai portato a termine. Gli storici della prima ora non hanno avuto molti dubbi, Heisenberg non ce l'ha fatta. Nonostante avesse detto a Niels Bohr nel 1941 di essere in grado di farla, non ce l'ha fatta. È passato, insomma, come uno che ha fallito il suo compito. Chi ha voluto scavare nel suo pensiero teorico, nella sua filosofia, poi ha potuto riscontrare vari elementi che, diciamo che se non proprio nazisti, almeno compatibili con il quadro ideologico del nazismo, lo erano. Agli occhi, diciamo, degli storici di un tempo. Gli storici che arrivano ora, invece, la pensano diversamente. A cura di Anna Ludovico è uscito Effetto Heisenberg, un libro che l'editore, approfittando della data di nascita del fisico, che 5 dicembre del 1901, confeziona con una fascettina rossa su cui campeggia la scritta nel centenario della nascita. Come se l'anniversario natalizio garantisse già di per sé i nuovi valori di cui caricare il nato, nato che nel frattempo, nel 76, è anche morto. Da questo libro esce fuori un Heisenberg alla Dürrenmatt, una sorta di Penelope della fisica che di notte disfa la tela atomica ordita di giorno in attesa dell'Ulisse arrivano i nostri. La bomba avrebbe potuto farla, ma se ne è ben guardato. Niente affatto nazista, Heisenberg sarebbe da glorificare sui nostri altari per aver preso parte, presumibilmente, all'iniziativa della Rosa Bianca, l'opposizione anti-hitleriana soffocata nel sangue. La documentazione, tuttavia, non è poi così ricca come gli storici novelli vorrebbero far sembrare. È probabile che i servizi segreti abbiano cancellato parecchie tracce utili. Ma di certo molte zone della vita di Heisenberg rimangono anche oggi nell'oscurità. Non si capisce bene perché, per esempio, venne arrestato, poi venne rilasciato dalla Gestapo, o perché se la cavò perfino in quel 1944 dopo l'attentato a Hitler. Nel tentativo di far tornare i conti che non tornano, Federico Marinelli, forse che è uno il più entusiasta, diciamo, fra gli agiografi dell'attualità di Heisenberg, ricorre perfino ad un argomento che definire estremo pare poco. Riteniamo che l'interrogativo che incalza da oltre 50 anni, se cioè Heisenberg non abbia potuto o non abbia voluto costruire la bomba atomica, possa essere risolto in un'ottica filosofico-spirituale e non soltanto storico-tecnico-scientifica. Ma le implicazioni della questione, prosegue il Marinelli, travalicherebbero di gran lunga il fatto episodico e giacerebbero in un ambito della realtà superiore e totalmente indeterministico come quello del libero arbitrio. Questo Marinelli pretende, cioè, di salvare Heisenberg prendendo di peso le sue teorie della fisica quantistica e trasferendole pari pari nei modelli di spiegazione storica. Dalla vicenda è bene ricavare una morale. Tutti dobbiamo sentirci liberi e ben lieti di rettificare un'opinione su qualcosa o qualcuno del passato. Basta che ci siano documenti sufficienti e che questi concorrano ad un insieme coerente con quanto dato per assodato. In caso contrario, In caso contrario è bene non approfondire certi giudizi e lasciarli sfumati. Ma ecco, e qui sta il punto, ma di giustificazioni neoidealistiche, di nuovi misticismi tramite i quali leggere la storia, per quanto siano tratti dalle teorie filosofiche dei fisici, non si sente affatto il bisogno. Fra le tante sciocchezze invocate a sostenere le tesi dell'innocenza eroica di Heisenberg è tirata in ballo, un po' per i capelli, anche l'occasione in cui Heisenberg si innamorò di Elisabeth, colei che poi divenne sua moglie. Racconta Heisenberg, dopo, di quanto prima e durante la guerra si sentisse umiliato nell'esercitare quotidianamente la propria obbedienza di probo cittadino nazista. Si sentì umiliato, a quanto dice, anche quella mattina in cui andò per le strade di Lipsia a far la questua fra i passanti per finanziare il regime. Se ne sarebbe tornato a casa e sarebbe stato preso dal culmine dello sconforto, ma guarda caso, o guarda la provvidenza, o guarda il principio di indeterminazione, fu proprio in quel giorno che poi incontrò l'amore. Agli storici di un tempo la giusta posizione degli eventi non avrebbe fatto né caldo né freddo, e comunque mai e poi mai avrebbero utilizzato il racconto né per dimostrare l'importanza di una concezione provvidenziale della vita, né tantomeno per mondare qualcuno dagli stigmi del male. Se oggi gli storici indulgono a questa logica, una ragione ci sarà, ma quale che sia, non promette nulla di buono per i soggetti delle loro narrazioni. Dalle registrazioni dei colloqui intercorsi fra gli scienziati tedeschi rinchiusi a Farm Hall emerge un brano in cui Heisenberg accenna ad una curiosa e tragica vicenda. Si tratta del caso dell'ebreo polacco Schroeder, un logico matematico. Heisenberg dice che gli erano giunte notizie e richieste di aiuto per costui tramite alcune lettere di un certo Scherrer, rifugiatosi in Svizzera. L'ultima di queste lettere, indirizzate ad Heisenberg, a quanto pare diceva: caro Heisenberg, ho appena saputo che il matematico Schroeder è in grave pericolo. Ora vive nella piccola città tedesca di Thale sotto il falso nome di Tal dei Tali. Ma guarda un po', Heisenberg dice che dopo questa lettera non ne ha sentito più nulla, e ora, soltanto ora, gli hanno detto che il povero Schroeder è stato trovato e ammazzato. Al controllo della corrispondenza, evidentemente, i nazisti avevano preposto gente che, non sapendo prendere nella dovuta considerazione il principio di indeterminazione, si affidava ancora alla vecchia causalità quantistica. I destinatari sconosciuti sono sempre più tanti di quanto si pensi, e soprattutto alla trasformazione di un destinatario da conosciuto a sconosciuto contribuiamo più di quanto non si sia mai noi disposti a sapere.